ennesima puntata di Chiedo Asilo ABC, no? Sì, adesso la vera questione però è chi gira la ruota, perché sì, qui c'è già una cosa, allora non abbiamo rispettato. Tocca a me, basta. Quale lettera uscirà? No. Ma Bambino chi lo Alberto sa? Secondo me l'ha girata ieri. Bambino Alberto. Vabbè, allora, adesso allora tocca sì, a Drago, no? Perché no, tu io sarà due Drago, settimane, tre che non la giro. E abbiamo cominciato vabbè, dopo una settimana. Dai, tocca a me. Gira, dai. Cittalipa. Cittalipa. Cosa vuol dire cittalipa? Dai, rifacciamo. Aspetta, riprova. Ripeto, cittalipa. No, ma dice cittalipa. Ma è, allora è rotto il tuo... Cos'è, è la rotto, ruotona è rotta. E non si capisce. E non si capisce. Lo fai aggiustare da chi? Ormai le cose non si aggiustano più, si buttano. Ma non così è vero, Drago. Adesso, quando ti si rompe una cosa, fortunatamente, ci sono i cinesi che le aggiustano. Anzi, guarda, facciamo C di cinesi, che tra l'altro il bambino Alberto ieri ha scambiato i cinesi e i giapponesi. Eh sì, bisogna spiegare. Cinesi e giapponesi è la stessa roba. Ma no, certo, ma no. Allora, C di cinesi o di sì, Cina. Beh, c'è di Cina, cinesi. Beh, i cinesi è vero che hanno cambiato anche l'aspetto delle nostre città, i loro sì, negozi sono dappertutto. Sì, i nostri bambini sicuramente hanno imparato a conoscere la cultura cinese qua in Italia. Ma insomma, i bar sono uguali, solo che al posto del barista non so, pelato sardo, magari che esatto, c'era prima, c'è adesso un, c'è un cinese o una cinese che non sa fare il cappuccino. Beh, quello sì. Bambini, allora, voi che cosa sapete della Cina, dei cinesi? Della Cina c'è il voltino primavera, vabbè, sushi. Ma no, sushi sì, ma no, giapponese, sempre... paella. Che paella? Ma no, sì, no, ma, no, ma cosa stai dicendo? Ma no, beh, aspetta, i cinesi sa tipo Bruce Lee. Ma vabbè, sì, ok. No, ho capito, Bruce, ma Bruce stiamo Lee parlando di cibo, voglio dire, capito? Ma non è che stiamo di cibo, parlando di stiamo cibo, parlando di Cina. Di cibo no? Cinese, no? Ma no, cibo cinese. Però il cibo cinese non è male, eh? Ma sì, cibo cinese. Cibo cinese, io guarda, da quando sono bambino ho questo problema che lo vorrei ordinare al telefono. Ma non mi capiscono, ma cioè come? Non riesco a farmi capire. E non riesco a farmi capire, bisognerebbe dire i numeri. Invece io provo a dire, sai, appunto, in voltino primavera. Loro vanno in crisi. Con le mandorle, senza mandorle. E senza io. Pronto? Pronto? Allo? Pronto? Mandalin? Mandalin. Vorrei ordinare per K. K? Lo non veniamo a prendere. Che? K? Allora, vorrei quattro pezzi in voltini. In voltini. Tre porzioni di riso alla cantonese. Tre cantonesi. Due porzioni di spaghetti con verdure. Con verdure, senza verdure. Di soia, sì, sì, di soia. Una porzione di ravioli con verdura. Ravioli con verdura! Una porzione di anatra alle spezie. Una porzione di pollo al limone senza pastella, mi raccomando. Poi, una porzione di maiali in agro dolce. E una porzione di gamberoni alla piastra. Gamberoni in piastra abbiamo! Sì, basta così. Per, sì, basta così. Perché ora dobbiamo venire? Domani, dopodomani, non fra, facciamo fra un quarto d'ora? Di adesso o di domani? Un quarto d'ora, ok, quarto d'ora. Grazie. Buonasera. Ragazze cinesi, no, pianta, Little China Girl. Poi David Bowie, tra l'altro, è tornato in attività. Tornato sembrava fosse morto, fosse così sul punto di. Allora, che lo ci sta ascoltando sicuramente. Ciao Bowie. Comunque le ragazze cinesi, poi questo video ti ricordi? C'era quella ragazza bellissima, sì, e lui che si coricava, che faceva il segno con gli occhi. Ecco, sì, sì. Le cinesi, vabbè, sono così gentili, devote alla causa del proprio maschio. No, quelle sono le geisha, sono giapponesi, non far casino come il bambino, vabbè, Alberto. È vero, hai ragione, ma è uguale, no? Ma cosa, non è uguale, non è vabbè, uguale. Dai, allora, per capire bene la cultura cinese, per non confonderla con quella giapponese, bisogna ascoltare le canzoni di un gruppo inglese, perché gli inglesi ne sanno di roba asiatica, sono stati dappertutto. Sono stati a Hong Kong. A Hong Kong cent'anni, hanno imparato bene che cosa sono i cinesi. Io voglio farvi sentire un pezzo dei Monty Python, una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti dei cinesi. Monty Python? Sì. Canzone. I like Chinese. Mi piacciono i cinesi. I like Chinese. Mi piacciono i cinesi. They only come up to your knees. Ti arrivano le ginocchia. Yet they're always friendly and they're ready to please. Ma sono cordiali e compiacenti. Like Chinese. Gli piacciono i cinesi. I like Chinese. Sì, ho capito. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. Cinese. I like Chinese. Ma vuoi mettere i cinesi? They come from a long way overseas, but they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. Sì, il cibo cinese. The waiters never are rude. I camerieri sono sempre cortesi. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I Sapien, un onore di trago, sa già, ravioli di gambere, muoia e un gambere funghineri. Basta. Hola. Zen, Zen, Ping Pong, e Yin e Yang, e Yang. È il pensiero cinese, per esempio. La saggezza insegnata da Confucio. Secondo Darwin, i cinesi ci sopravviveranno alla grande. Sti cinesi. Sempre i cinesi. They only come up to your knee. Yet they're wise and they're witty and they're ready to please. All together. Dagli vanto un uomo di gamberi. L'uomo di gamberi, non capisci? È un uomo di gamberi. Un uomo di gamberi, che vuole? È un uomo di gamberi. E ci neri, no? È un uomo di gamberi. C'è un uomo di gamberi. Ma tu non capisci, questo è il cinese. Un uomo di gamberi, come dire, è una metafora, no? È un'immagine, è un tu pensi, un uomo di gamberi. Ah, un uomo di gamberi. E che poi che facciamo? Cantiamo tutti insieme. I like Chinese. Forza. I like Chinese. Ma vi voglio. I like the tiny little trees. The zen, the ping pong, ping pong, ping pong. Ying and yang. I like Chinese. Ma vi voglio insieme. Così vedi, gli insegniamo anche uno spirito di fratellanza verso i popoli diversi dal nostro, certo, le culture diverse. Allora, che cosa avete imparato della Cina? Allora, poi c'è la Cina, alla fine, vai ben vedere, c'è l'anitra, no? Baccata, pechinese, no? Ma vabbè, ma sempre queste ma cose cosa? Ma ancora mangiare, ma pensate sempre a mangiare. Vabbè. Ma per forza, Drago, ma tu gli fai sentire la canzone degli inglesi, dei Monty Python, che parlano degli stereotipi sui cinesi. Vabbè, stereotipi, non sa nemmeno cos'è, 70, stereotipi. Loro stereotipi lo so, quando cos'è? Sento la musica, cioè, io sento la musica. Sì, ho capito. La musica cosa? Ma sì, no, la musica, no? Lascia perdere. Ma no, bisognerebbe andare in Cina allora per capire la Cina veramente. Bravo, e adesso vi porto nel posto più, diciamo, importante di tutta la Cina, dove tutto è nato, dove Shanghai, tutto quello che Hong conosciamo Kong, della cultura Shenzhen, cinese Pechino, è nato. No, Nanchino. Drago, no. Dove? Nella famosa regione di Hashushoshuan. Qui, nella regione di Hashushoshuan. Hashushoshuan, non Hashushoshuan. Vabbè. Cosa ne dite? Mi piace. Capannoni industriali. Mi piacciono questi capannoni. Lo smog. Ioris, lo smog e tossisce per forza. Siamo in Cina. Siamo è la Cina. Ma no, ma qui è la regione di Hashushoshuan. Qui è nato tutto, Drago. Qui hanno inventato la carta. Qui hanno inventato gli scacchi. Gli scacchi. Gli scacchi, vabbè. Qui nella regione di Hashushoshuan. Hanno inventato la polvere da sparo, i fuochi d'artificio, li hanno inventati qui. Ma che? Oh, i botti l'hanno fatto a Napoli. Ma vabbè, senti. Hanno inventato qui anche gli spaghetti, caro Ioris. Gli spaghetti? Ma che stai dicendo? La pasta al pomodoro, un poco di pomodoro in coppa e su tutto. Si sente già dalla parola che è napoletano. Dai, cinese. No. Quelli è copiano. Nato tutto qui, nella regione di Hashushoshuan. Hashushoshuan. Allora, no, allora, avete imparato siamo che... nella regione di Ashuaishuan. No, ma almeno una cosa imparate. Allora, non imparate mai niente. Gli involtini in primavera, la paella. Allora, almeno la regione di Ashuaishuan. Allora, insieme a me. Qui, nella regione di Ashuaishuan. Qui, visto che siamo qua nella regione di Ashuaishuan, dove è nato tutto, qui allora c'è due volte di primavera. E possiamo anche. con pezzi di pizza. Ma cosa c'entra questa pizza? Magari a Pino Daniele la pizza. Ma cosa c'entra la pizza? A parte che poi anche la pizza l'hanno inventata qui, eh? Ma qui dove? Ma proprio qui, no? Dove? Ma qui! Nella legione di Asu Sansuan. Un programma di Torniamo domani. Sì, con una nuova parola, con la rotona. A proposito, l'hai portata a aggiustare la rotona? Ma me l'aggiustano qui, nella regione di Asha Sheshuan.